In via McMahon, lo IACP aveva costruito a tempo di record centinaia di appartamenti di lusso che assegnava cifre impossibili da raggiungere per un operaio. Le condizioni di vendita erano di 4 milioni subito e una quota mensile di ammortamento di 109.000 lire, che oggi equivarrebbero rispettivamente a circa 35.000 euro e a circa 950 euro. Nei primi anni 70 ci fu una prima occupazione di case in periferia, nei quartieri di Balanzate e del Gallaratese, entrambi a circa 7 km dal Duomo di Milano. È in questo contesto che il 22 gennaio 1971 25 famiglie provenienti dai centri sfrattati di Ficino, Quinto Romano e Corso Garibaldi, appoggiati da militanti dei gruppi della sinistra extraparlamentare come Lotta Continua, Sinistra Proletaria e dell'Area Anarchica, occuparono gli appartamenti dell'IACP di via McMahon. Queste famiglie, ormai stanche dello stato di miseria in cui erano tenute nei ghetti dei centri sfrattati e di essere prese in giro con false promesse di un alloggio decente, si presero ciò che spettava loro di diritto, sia perché quelle case le avevano costruite proletari come loro, sia perché dalla loro busta paga veniva sottratta una percentuale a favore della GESCAL, che sta per Gestione Case per i Lavoratori, un fondo per l'edilizia popolare istituito nel 1963 e che poi fu soppresso nel 1973 ed il suo patrimonio fu passato alla gestione delle regioni. La GESCAL, nei 10 anni di esistenza, aveva incassato 630 miliardi di lire, che oggi equivarrebbero a circa 64 miliardi e mezzo di euro. Il Partito Comunista dipingeva gli occupanti come degli esasperati, incapaci di decidere da soli e per questo, secondo loro, erano guidati da militanti della sinistra rivoluzionaria. Il giorno dopo, al mattino, le famiglie si stavano ancora organizzando e sistemando negli appartamenti occupati. Erano già stati diffusi dei volantini a tappeto, nei supermercati vicini e persino nella parrocchia, che annunciavano l'occupazione. Erano decisi a rimanere negli alloggi occupati fino a quando le autorità non si fossero decise a consegnare loro una casa decente. Ed ora ascoltiamoci una canzone di lotta molto cantata nei cortei di quegli anni. Prendiamoci la città. Questa nostra lotta è la lotta di chi non vuole più servir, di chi ormai cosciente della forza che ha e non ha più paura del padrone, di chi vuol trasformare il mondo in cui viviamo nel mondo che vogliamo, di chi ha ormai capito che è ora di lottare, che non c'è tempo di aspettare. Dalle fabbriche in rivolta un vento soffia già, ovunque arriverà, è proprio un vento rosso che non si può fermare, e unisce chi ha deciso di lottare. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città. Se occupa le case chi non ce le ha, unisce tutta la città. Si lotta nei quartieri per non pagare i fitti, difendere le case dagli sfratti. Si lotta e si vive in maniera comunista, non c'è posto per il fascista. La giustizia proletaria ricomincia a funzionare con il processo popolare. Dalle fabbriche in rivolta un vento soffierà, ovunque arriverà, è è proprio un vento rosso che non si può fermare e unisce chi ha deciso di lottare. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città. Proletari in divisa si ribellano perché hanno capito che anche la caserma, come la prigione, è un'arma del padrone. E la loro lotta avanza con la nostra unità verso la libertà. Dai quartieri alle caserme, dalla fabbrica alla scuola, è tutta una lotta sola. Dalle fabbriche in rivolta un vento soffierà, ovunque arriverà. È proprio un vento rosso che non si può fermare e unisce chi ha deciso di lottare. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città. La scuola dei padroni non funziona più, ma solo come base rossa. La cultura dei borghesi non ci frega più, l'abbiamo messa nella fossa. Anche nelle galere della repressione cresce l'organizzazione. Svuoteremo presto tutte le prigioni per fare posto a tutti i padroni. Dalle fabbriche in rivolta un vento soffierà, ovunque arriverà. È proprio un vento rosso che non si può fermare e unisce chi ha deciso di lottare. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città. Nel pomeriggio arrivò la polizia in forze. Vennero impiegati ben 900 celerini, comandati dal vicequestore Vittoria. L'area intorno alle case occupate si riempì di cellulari che chiusero e circondarono la zona. Le autorità in seguito giustificarono questo enorme dispendio di forze repressive dicendo che erano state mobilitate in così grande numero per la manifestazione dei neofascisti che si era svolta la mattina a Milano e visto che erano tutte in turno fu deciso di portarle tutte in via MacMahon. Da notare l'escalation di forze repressive impiegate contro le occupazioni di case a Milano. 200 a Baranzate, 600 nel quartiere Gallaratese ed infine 900, come abbiamo visto, in via MacMahon. Gli occupanti fecero delle barricate con l'intenzione di guadagnare tempo per fare in modo che la notizia dello sgombero arrivasse ai giornali, ma anche per difendersi dai fascisti e dagli attacchi repressivi della polizia e dei carabinieri. Ed ora ascoltiamoci Ribellarsi è giusto, dell'Assemblea Musicale Teatrale. gesto di rivolta per costringerci a una svolta. Ribellarsi è giusto, da un carcere, da un ghetto, da mille senza tetto. Ribellarsi è giusto, per uno che si muove tutto il mondo può guardare. È giusto, un gesto di rifiuto contro un avvenire uguale di un fascismo conosciuto. Ribellarsi è giusto, sconvolgere Milano a volte è un gesto un po' più umano. Ribellarsi è giusto, chi è schiavo, chi è banale può chiamarti criminale. Ribellarsi è giusto, se sei senza un programma forse finirai in un dramma. Però è giusto spezzare le catene dal sudore delle schiene, dal rumore di sirene. Ribellarsi è giusto. L'intervento poliziesco fu molto violento. Manganellarono pesantemente tutti coloro che capitavano a tiro. Solo una ventina di compagni riuscirono a scappare. Una giovane ragazza riuscì a salvarsi dalla brutalità dei poliziotti nascondendosi sotto una pila di materassi. Furono addirittura utilizzati cani addestrati. Lo scontro con la polizia fu breve, data la disparità delle forze in campo. Ad opporsi alla furia poliziesca c'erano solo 200 persone, compresi bambini. Dopo lo sgombero, comunque, per 3 ore gli scontri proseguirono, grazie all'intervento e alla solidarietà degli abitanti del quartiere circostante. Per la prima volta a Milano la polizia chiuse tutte le possibili vie di fuga con lo scopo di poter fare una retata. Furono fatti 66 fermi, di cui 25 erano militanti della sinistra rivoluzionaria. 17 di lotta continua, 5 anarchici, 2 di sinistra proletaria e 1 dell'Unione Inquilini. Per 25 di queste persone il fermo fu tramutato in arresto. Immediatamente dopo lo sgombero ci fu una grande gara di solidarietà con gli occupanti. La notizia dello sgombero riempì le prime pagine dei giornali. Ci fu addirittura un intervento dell'arcivescovado in favore degli occupanti. Il Partito Comunista, invece, scrisse che il giorno dopo l'occupazione e lo sgombero le famiglie erano tornate nelle baracche, cosa non vera. Le famiglie, invece, proseguirono la lotta con altre forme, fino ad imporre alle autorità la concessione di una casa decente per tutti coloro che avevano partecipato all'occupazione. Dopo lo sgombero occuparono il centro sociale di Quarto Giaro. Successivamente manifestarono a Palazzo Marino, il municipio di Milano, dove il sindaco Agnasi, socialista a capo di una giunta formata dalla Democrazia Cristiana, dal Partito Socialista e dal Partito Socialdemocratico, si rese conto che le semplici promesse non bastavano più di fronte a tanta determinazione da parte degli occupanti e delle forze che li sostenevano. Inoltre, gli occupanti respinsero la proposta del sindaco di assegnare la casa solo a due famiglie e la promessa, solo verbale, che le altre le avrebbero avute in seguito. Il sindaco mandò quindi un suo rappresentante a trattare con le famiglie sgomberate al centro sociale di Quartogiaro, che fu tenuto in ostaggio dagli occupanti per circa 3 ore, finché non fu ottenuta l'assicurazione della casa per tutti. E quindi ascoltiamoci un'autoironica canzone di Gianfranco Manfredi, Quarto Oggiaro Story. I love you. Oh yeah. The very big. Oh baby, baby, baby, baby. Ti ho incontrata a Quartogiaro, davanti al supermarket, saccheggiato. Oh yeah. Avevi in tasca una scatola di tonno dello Wyoming. La tua coscienza politica era scarsa. Io c'ho qua il bourbon, io c'ho qua il whisky, io c'ho qua il caviale che a differenza del tonno non fa male. Io questa sera mi bevo lo champagne, circondato da 4 compagne. Mentre tutto mangio tonno con quel fesso di Dodonno, mentre tutto mangio tonno con quel fesso di Dodonno. Ti ho incontrata alla prima visione, dopo l'appropriazione. Oh yeah. Tu hai visto un Franchi ed Ingrassia, mentre lì vicino facevano un film inchiesta sulla CIA. La tua coscienza politica è proprio scarsa. Io ho visto il Bertolucci, ho visto la Cavani, San Francesco e i 7 nani vestiti da nazisti. Ho visto Scapon Zanfan dei Fratelli Italiani. C'eravamo tanto armati e 18 film di marziani micidiali in Cineteca. Io questa sera mi vedo i filmini svedesi con 2 compagne cinesi. E tutto veda televisione con tua donna fedendone, tutto veda televisione con tua donna fedendone. Oh yeah. Again, baby. Amor. Honey. Melassa. Oh yeah. Ciao. Ti ho incontrata alla Feltrinelli. Tu fregavi solo gialli, neanche belli. Ristampe. Si vede che la tua coscienza politica è bella e proprio scarsa. Guarda me, io c'ho qua il Kerouac, c'ho qua il Garcia Marquez, io c'ho qua il teatro di Faux, chissà che cosa me ne fo. Io questa sera mi leggo La Morante. Con una bimba tutta pimpa. E tutte le giacca da Cristo, cotto tonno d'oro Cristo. Tutte le giacca da Cristo, cotto tonno d'oro Cristo. Ti ho incontrata davanti all'armeria, in attesa, con la borsa della spesa, esagerata. Io compravo i soldatini, tu un fucile coi piombini. Si vede che la tua coscienza è in crescenza. Io c'ho a casa la corazzata Potemkin, Politois. C'ho la spada del nonno carabiniere, c'ho le pistole di madre Perla e il mattarello di madre Pirla. C'ho le guns di plastica di Jesse James e il mitra in simil legno con il fodero in simil pelle e proiettili in simil salve. Tutte metta fa cagnare con sto cazzo del bar, e tuo tonnino fedendone tiene una sberla de cannone, e un tuo amico di Potop tiene 40 molotov, e uno dell'autonomia viaggia sempre con la zia. Con cosa c'entra la zia? Pesa 500 kg e può sempre servire, calata dall'alto. Forse la tua coscienza è troppo in crescenza. Il processo ai 25 arrestati, svoltosi per direttissima il 17 febbraio in cui già il pubblico ministero colato sostenne che gli occupanti avevano maturato il diritto ad avere una casa dallo Stato avendo pagato regolarmente i contributi alla GESCAL, portò poi ad una sentenza eclatante della settima sezione penale e si concluse con solo due condanne a 4 mesi per resistenza alla forza pubblica e la soluzione con formula piena per gli altri 23, con la motivazione che l'occupazione delle case non costituiva reato. Riportiamo uno stralcio della sentenza. L'invasione delle case non può essere considerata arbitraria, perché gli sfrattati costretti a pagare i contributi per la casa devono essere considerati titolari di un vero e proprio diritto alla casa stessa. Di fronte alle gravi inadempienze dello IACP, essi potrebbero chiedere la restituzione dei contributi e il risarcimento dei danni. Chiedo pertanto l'assoluzione di tutti gli imputati da questa accusa, perché il fatto non costituisce reato. Durante il processo, gli occupanti sgomberati testimoniarono sulle brutalità subite dalla polizia. Uno di loro disse: «I poliziotti gridavano, li ammazziamo tutti, sti 4 straccioni!» Un'altra testimone disse: «Quando arrivò la polizia incominciarono le botte. Sulle scale tiravano giù le ragazze picchiandole. Gridavano: fuori straccioni, fuori! Un uomo in borghese con la fascia tricolore afferrò la mia bambina di 1 anno e la trascinò per terra. Io intervenni e ricevetti una botta sulla mano destra. Anche mio figlio di 8 anni si è preso delle gran botte sulla schiena. Gridavano: ammazziamoli tutti! Ed un'altra: a mio figlio Claudio hanno detto: sta zitto, se no ti sparo. Le 25 famiglie alla fine ottennero tutte delle case decenti, spaziose, pagando 15.000 lire al mese, circa 130 euro di oggi, con il resto del canone pagato dal comune. Inoltre non pagarono i consulenti 3 mesi anticipati. Anche il trasloco fu pagato dal comune e per l'attacco della luce e del gas ottennero 80.000 lire subito e altre 80.000 al momento del trasloco. All'inizio degli anni 70 era possibile vincere battaglie come questa. Era possibile perché le fantastiche e dirompenti lotte condotte dagli studenti e dagli operai negli anni precedenti, a partire dal 1968, avevano reso possibile mettere in discussione lo stato di cose presente. Per chi volesse approfondire, non ci sono purtroppo molte fonti. La prima è il libro Prendiamoci la città, una storia così non dovrebbe finire mai, a cura de La Barricata. Un articolo del giornale Lotta Continua del 17 febbraio 1971, scaricabile da ostuniribelle.it. Il video, realizzato dal collettivo Cinema Militante Milanese, è conservato e digitalizzato da Archivio Nazionale Cinema Impresa, dal titolo Città del Capitale 1971-1976, visibile su archivioautonomia.it o su YouTube. Finisce qui anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Alla prossima!